io ho quasi 42 anni e ho cominciato a trovare un posto dove mi piaceva fare politica nel 93. Prima ho partecipato alla Pantera, però c'era sempre qualcosa che fino in fondo non mi faceva sentire nei posti. E mi sono sentita fino in fondo nei posti quando ho cominciato a usare la parola lesbica politicamente. Ma non voglio fare la storia della mia vita, voglio solo ricollegarmi a quello che diceva Porpora, che aveva avuto due parole, oblio e delega, e le voglio mettere insieme con una cosa invece che riguarda la mia vita politica, insomma, diciamo, che poi è un fatto di tutta la Graziella. Io nel 1995, per la mia storia, per la mia vita, mi sono trasferita a Verona. E quindi ho partecipato a quella cosa, è stato come si alzano la testa, è stata arrestata con Graziella e gli altri, con gli altri ho partecipato alla costruzione del comitato alzano la testa, sono 7 arrestati e 7 mi comitati, non è che... Sì, la matematica di prima. Io fino a quel momento erano 2 anni che facevo politica come lesbica, conoscevo la Civia Cilettica, quindi dentro la Civia Cilettica lavoravo, mi entra quel circolo che aveva prodotto il documento insieme al circolo di Pisa, che andava alle assemblee nazionali, eccetera, eccetera, e non conoscevo altro movimento fino a quel momento, né lesbismo separatista, né tantomeno gli anni 70 di cui ci parlava Porpora, eppure io sono sempre stata una studiosetta, prendevo appunti, leggevo, tutto quello che circolava, cercavo di fare, però niente, io non lo conoscevo tutto ciò, non lo trovavo da nessuna parte, cioè quello che circolava io l'avevo letto tutto, credo, però quello non c'era arrivata. E però mi ricordo che io credo che lì ci sarà stato lo zampino di Graziella, che invece gli anni 60 l'aveva vissuti, però per non fare la maestrina probabilmente ci ha fatto arrivare da soli delle cose che forse l'aveva già nella testa, non lo so, l'interpretazione di ora. Io mi ricordo che noi facemmo un adesivo per pubblicizzare la manifestazione, in cui c'era scritto: la manifestazione si tenne il 30 settembre del 95, e l'adesivo intorno aveva scritto: non ci sono diritti per chi non li rivendica in prima persona. Per me, per Gianni, per Roberto era come dire il frutto del nostro sentire in quel momento, non aveva una storia quella frase per noi, eppure invece una storia ce l'aveva, cioè noi in quel momento abbiamo pensato: questa storia della delega non funziona, cioè non funziona perché il Consiglio Comunale di Verona ha scritto una mozione nella quale c'è scritto testualmente: l'omosessualità è contro natura. Questa mozione è stata votata, e se noi non fossimo usciti da quel Consiglio Comunale in prima persona, non avessimo occupato la strada in prima persona, non ci fossimo fatti portare via, nessuno ne avrebbe parlato. Abbiamo ancora avuto un barlume di attaccamento alle vecchie forme che gli anni 90 ci avevano insegnato, cioè dalla macchina dei carabinieri. Io stessa, che non possedevo telefonino, ma uno di noi lo possedeva, non mi ricordo, chiamai Franco Grillini, che era presidente della CIVE, e dissi: Franco, devi fare comunicati stampa, ci stanno arrestando, eccetera. E lui mi disse di no. E a quel punto pensammo: quello che si deve fare facciamolo noi, nel senso, qua ci siamo noi, facciamolo noi, senza passare dai quadri o dalla delega a qualcun altro. Beh, per me quella frase, anche se ci ho messo un altro anno, è stata ovviamente la mia, molto rilevante nella mia fuoriuscita da quell'associazione e da quello che ho pensato, eccetera. Però forse era corretto così, forse ha fatto bene Franco quell'occasione, perché abbiamo capito che il movimento non si fa più.